da Labia Ayala, lotte e resistenze dal Mesoamerica ai tempi del coronavirus. Buongiorno, benvenuti a tutte e a tutti, bentornati su Radio Quarantella, questa è Labia Ayala, voci dall'America Latina. E come sempre stiamo cercando di dare un occhio di riguardo ai paesi del centro e del Latin America per cercare di scoprire e di capire meglio come stanno affrontando le fasi della pandemia e che cosa sta succedendo, diciamo, nelle zone, diciamo, in questo momento più colpite del paese. Quest'oggi siamo tornati a sentire il caro amico Cippi Martinelli dal Chiapas, proprio perché il Messico in quest'ultimo periodo sta vivendo un picco non solo di contagio, ma della gestione della pandemia. Un po' come tutti i paesi che abbiamo toccato, i governi hanno cercato di affrontare questa pandemia nelle diverse forme, nelle diverse maniere, e il governo messicano ora sta trovando di fronte una situazione molto complessa. Sempre in compagnia di Alessandro Rocco. Ciao Alessandro, ciao Cipi. Ciao caro. E come al solito abbiamo anche il nostro Tony Bictano Music che ci accompagnerà con trascorsi musicali. Labia Ayala, voci dall'America Latina. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mama tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mama tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bribri bombeando tierra madre dice. Bribri bombeando tierra madre te dice basta. Bribri bombeando tierra madre escuche. Bribri bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bribri bombeando ponte en pie. Bribri bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y mama tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mama tierra, mother earth. Grite, grite, va muriendo lentamente, mama tierra, mother earth. Mama reclamó, se la paga la llamó, Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Grite, grite, no, no, no, no lo ves. Cippi, noi ci siamo sentiti quasi un mesetto fa, direi, poco meno di un mesetto fa. Ci raccontavi un poco della situazione che si andava immaginando, voi leggevate, vedevate quello che stava succedendo in Europa e immaginavate che la cosa poteva portarsi in Messico, in Chiapas in particolare, poteva arrivare, diciamo, il colpo della pandemia. Ora siete particolarmente colpiti. Ci vuoi dare un primo quadro così di riferimento su com'è la situazione, come la state vivendo, sia a livello del paese che nello Stato? Sì, infatti, giustamente come dice Carlo, la situazione qui è quella che era stata dai più di noi ampiamente prevista. Siamo in piena pandemia, nonostante le dichiarazioni del presidente López Obrador e del sottosegretario alla salute Gattel, che siamo al picco, la linea si è normalizzata, eccetera, sono sciocchezze. Siamo in piena pandemia, il numero dei casi che aumentano in maniera esponenziale, ma altamente esponenziale, giornalmente il numero dei morti supera il 10%. Questo però, guardate, sono i dati ufficiali, sono numeri. A questo punto, già da un po' di tempo ai numeri non ci crediamo più, naturalmente, perché sono una rappresentazione molto molto esigua rispetto alla vera realtà. Adesso io ti ripeto quello che vi dico sulla situazione del paese in generale è relativa, perché da un po' di settimane, da 3-4 settimane, siamo in pienissima emergenza qui nelle comunità indigene, dove la situazione è realmente drammatica. Realmente drammatica, il numero dei casi aumenta moltissimo, ci sono moltissimi contagiati. Certo, non abbiamo come fare il tampone, per esempio, però clinicamente non abbiamo dubbi. Morti abbastanza, stamattina abbiamo avuto notizia di altri due compagni morti, purtroppo erano due persone che sono state contagiate e sono arrivate all'osservazione dei promotori, se nostra, in situazione ormai di avanzata malattia, la cosiddetta fase 3 della malattia, quella che praticamente vede già distrutti i polmoni e abbiamo potuto fare poco niente se non allungare di qualche giorno la morte. Sì, questa è la situazione. Tierra húmeda nació, en la tierra húmeda nació el indio Manuel a la luz de la mañana, con la piel de lodo y los ojos de oro. sol, silencio, incienso y dolor. Tierra húmeda murió, por ella lo mataron al querer defender la tierra que en un tiempo le heredaron. A la tierra húmeda volvió, a la tierra húmeda volvió. Y llueve, y llueve, y es el cielo que llora por él, y es la tierra hoy más fértil por la lucha del indio Manuel. Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze, dissonanze. Veramente quello che ci dici ci colpisce molto. E noi ricordiamo che stesso tu ci avevi raccontato come le ZLN si era mosso per tempo, come prima realtà organizzata, a creare delle barriere, a cercare di proteggere anche la sua gente nei territori autonomi, nei municipi autonomi, eccetera. E tu come spieghi un po' la situazione, il fatto che sia precipitata in questo momento? Secondo te quali sono i fattori che hanno determinato la situazione attuale? Bene, guardate, devo e voglio essere chiaro. È vero, sì, le autorità, e mi riferisco alle autorità militari zapatiste, che sono quelle che già da molto hanno ripreso il controllo della situazione in generale, hanno fatto il primo passo, che era un passo, diciamo, molto promettente, nel senso di fare immediatamente, prima che lo facesse il governo, prima di altre misure, diciamo così, di difesa dall'infezione, dalla pandemia, di chiudere i caracoles, dichiarare l'allerta rocca, l'allarme rosso, per evitare qualunque contatto dall'esterno con le comunità. E questo ci ha fatto sperare in bene. Purtroppo le cose non sono continuate così, perché sì, è vero, l'allerta rocca ha di fatto proibito qualunque contatto dall'esterno e dall'interno verso l'esterno, cioè nessuno poteva uscire dalle comunità zapatiste, attenzione. E io credo che voi sapete bene come le cose sono un po' cambiate, purtroppo, diciamo purtroppo, perché siamo dove siamo, perché le comunità zapatiste, anche le comunità zapatiste, voglio dire, non sono completamente zapatiste. Nel senso, c'è in ogni comunità, c'è stata già da un po' di tempo, ci sono state delle divisioni all'interno delle comunità, per cui non sono tutti zapatisti. Per cui la parte della comunità, mi spiego meglio, la parte della comunità che non è zapatista non ha obbedito, diciamo così, all'alerta rocca, ha continuato i suoi spostamenti. Poi c'è un'altra cosa che voglio dire: le cliniche, le nostre cliniche zapatiste, a partire dalla storica clinica di Oventic, è stata chiusa già prima della pandemia per problemi insorti interni, diciamo così, e tutti ci aspettavamo sinceramente che venisse riaperta rapidamente per questa emergenza. per poter dare una sufficiente, un minimo di assistenza alle persone ammalate. Lo so, chiaro, non stiamo parlando di ospedali super attrezzati, stiamo parlando di una grossa clinica con tutti i suoi limiti, che però ha una decina di posti letto e dove sarebbe stato possibile ricoverare almeno i primi ammalati per poterli isolare dalle famiglie. E invece questo è stato impossibile perché la clinica era chiusa. Parlando proprio di Oventic, vi racconto che due promotori di salute, di esperienza, quelli che nati un po' quasi insieme a me, diciamo così, persone competenti, voglio dire, di esperienza, hanno insieme alla comunità di Oventic, organizzato una piccola casa di salute, penso che sa di cosa sto parlando, una piccola casetta di legno e lamiera, dove poter fare un minimo di assistenza perché la clinica era chiusa e non c'è stata nessuna autorizzazione da parte delle autorità zapatiste a riaprirla. Però non avevano niente, niente. Nella clinica, nonostante fosse chiusa, però c'era un certo equipaggiamento di bombole di ossigeno, il laboratorio che ci sarebbe stato utilissimo in questo momento, perché per capire la malattia ha tre fasi: la prima, quella dell'infezione; la seconda, quella del grosso processo infiammatorio causato dal sistema immunitario delle persone, e poi la terza fase, quella in cui c'è bisogno dell'intubazione. Ok, per capire se l'ammalato di Covid stava passando alla terza fase è sufficiente un piccolo esame di laboratorio, si chiama proteina C reattiva, che il nostro laboratorio di Oventic avrebbe tranquillamente potuto fare. Niente, la clinica era chiusa e non si poteva neanche entrare a prendere l'ossigeno. È una cosa che io mi dispiace, mi dispiace doverlo dire, ma voglio finalmente parlarlo, a dirlo chiaro. Da parte dell'autorità zapatista c'è stata una presa di posizione per me completamente fuori delle possibilità di essere compresa e di essere accettata. Sappiamo bene come molte decisioni zapatiste spesso non è difficile capirlo, si capisce, ma in questo caso non parliamo solo che non può essere capita, ma non può essere accettata. Noi siamo in condizioni tremende, non abbiamo niente per assistere questi ammalati. Abbiamo creato un protocollo di cura in collaborazione a alcuni colleghi italiani, specialmente napoletani, di seria esperienza e di seria competenza. Abbiamo creato un protocollo di cura e stiamo attuando con questo protocollo, con tutti i limiti naturalmente, perché qua farmaci non ce ne sono, mentre anche la farmacia comunitaria, per esempio, parliamo sempre di Oventic, dove sarebbe stato più facile per la gente comprare alcuni medicinali, è chiusa. Per cui stiamo facendo i salti mortali insieme ai promotori di salute, che volontariamente, più che mai, sono sempre volontari, però in questo caso lo fanno proprio più che volontariamente, per assistere i pazienti a casa propria, dove chiaramente il contagio è immediato e la situazione veramente sta diventando incontrollabile. Facciamo di tutto, ma siamo in questa situazione pesante. Nosotros, aunque seamos desplazados, estamos de pie. Esperamos todos lo que está pasando con el mal gobierno. Aquí estaremos, aunque estamos viviendo así de enfermedades, pero sí, no estamos muertos, compañeros. de los conciertos de músicas de rock en el Distrito Federal. When your mind is on looking, a deeper reason to live. Let the young heart free the soul, giving more respect to life and more respect to the people. That's when your mind is on looking. Como siento que no entiendan mi manera de vivir, como odio tener que dañarle. Por eso se lucha la realidad. Cippi, allora sì, diciamo è veramente, diciamo, tristemente interessante quello che ci stai raccontando. Come dicevi, non è la prima volta che alcune decisioni delle Z, soprattutto quelle che provengono dal lato, diciamo, militare dell'organizzazione, sembrino oscure, incomprensibili a volte. Come dicevi, strategicamente si riescono a comprendere successivamente, spesso si riesce a tirare anche un sospiro di sollievo, nel senso, diciamo, meno male che avevano fatto quella scelta apparentemente incomprensibile, poi l'avevano, diciamo, ci avevano visto giusto. Questo è quello che più volte nella storia ci hanno sempre insegnato. Stavolta, come dici, diciamo, non si tratta di non capire, ma a volte sembra proprio non condividere. Mi domando, quello che tu ci hai raccontato su Ovintic, quindi era sulla clinica di Ovintic, e quindi era legato anche a delle dinamiche precedenti, all'avvento della pandemia, Sì. è riportabile anche agli altri centri di salute, diciamo, di una certa dimensione? Immagino Guadalupe Tepeaci, immagino gli altri grandi ospedali della zona di Altamirano. E che altre soluzioni a tua conoscenza, ovviamente, si stanno cercando di mettere in comunità da parte dei promotori di salute, che ho capito in questo momento essere lasciati un poco alla loro disponibilità, capacità, voglia di spendersi e di mettersi in gioco, insomma. Guarda, mi addolora molto dirlo, ma approfitto, diciamo, di questa chiacchierata pubblica che stiamo facendo per dire che la situazione è in tutto il sistema zapatista. Anche in Guadalupe Tepeaci, il grande ospedale che chiamiamo ospedale noi, di San José del Rio, chiuso. Le licliniche sono assolutamente non funzionanti. Tutto quello che si sta facendo grazie all'opera dei promotori e dei salud nelle singole comunità. Alcune si sono organizzate bene, per esempio stamattina io siamo reduci da una comunità un paio d'ore da qui, dove la comunità, grazie alle sue autorità, si sono organizzate abbastanza bene. Abbiamo organizzato una discreta rete di controllo delle persone casa per casa, e interveniamo il più presto possibile. Abbiamo già chiarito bene come il paziente, la persona ammalata, deve avvisare subito al primo sintomo, appena comincia un po' di febbre, per poter cominciare subito il trattamento medico che abbiamo messo a punto. Queste cose stanno funzionando, le comunità stanno lavorando autonomamente, nel vero senso della parola autonomia, però ci sono anche lì tanti, tanti problemi. Purtroppo i morti ci sono, e questo crea disperazione e anche, come voglio chiamarla, sfiducia, che non è proprio esatta la parola sfiducia, però diciamo in un certo senso abbastanza comune nelle comunità indigene di fatalismo, no? Dice, va bene, non c'è niente da fare, aspettiamo la morte. Qualcuno, non tutte. L'altro ieri mi ha chiamato una promotora di Salud, dicendomi, con voce che quasi rotta dal pianto, mi diceva: Doc, non so come dirtelo, però qua la situazione è tremenda, la gente non vuole più farsi curare. Stanno dicendo che non c'è da aver paura di questa malattia. Dice, dicono a noi: voi avete paura perché voi non credete, non avete fede. Quelli che non hanno fede moriranno, quelli che hanno fede verranno colpiti dalla malattia. Ci sono vari aspetti, voglio dire, all'interno delle comunità che rendono ancora più difficile l'intervento e nostro e dei promotori. Quel divieto che abbiamo cercato di di divulgare al massimo, di non di limitare al minimo possibile le riunioni per evitare ovviamente il contagio, e questa è un'altra cosa che non è avvenuta, è impossibile. Pensate che il municipio, il consiglio del municipio autonomo di San Andrés Larenza, 5 giorni fa è morto il presidente del consiglio autonomo municipale di San Andrés, è stato sostituito da un altro compagno, il quale oggi ci hanno comunicato di essere ammalato, e gran parte dei membri del consiglio sono ammalati di Covid. Rientrano a casa, rientrano nelle loro famiglie, nonostante che abbiano capito bene come sia importante l'isolamento, ma come si può pensare alla concretizzazione di un isolamento nelle case, nelle famiglie che voi conoscete bene? È impossibile parlare di isolamento. Le mascherine, eccetera, ma di fatto vivono tutti insieme. Per cui il contagio si sta, vi dico la verità, espandendo a macchia d'olio velocemente, all'interno delle famiglie, all'interno delle comunità. La situazione è veramente drammatica, non so fino a dove, quando si fermerà o rallenterà, ma per ora non si vede assolutamente nessuna apertura, la famosa luce in fondo al tunnel, no, non ce la sogniamo proprio per ora. L'unica cosa che voglio dire è che tutto questo, che mi dispiace dover parlare di cose così drammatiche, l'unica cosa che magari ci può far sorridere è che non stiamo stressati, né noi operatori, chi medico, chi promotore di salute, non ci stressiamo, a differenza di altre situazioni nelle città, per esempio, dove gli ospedali sono saturi. Tuxtla Gutiérrez ha già dichiarato la saturazione completa dell'ospedale, San Cristóbal più o meno sta molto vicino alla saturazione, la gente sta impaurita, stressata, terrorizzata. Noi no, perché non abbiamo niente. Non ci abbiamo gli ospedali, non ci abbiamo i posti letto, non ci abbiamo assolutamente nessun problema di questo genere. Perché riusciamo, nonostante tutto, e sto parlando naturalmente in serio, a lavorare serenamente. Facciamo quello che possiamo. In questi giorni abbiamo visto un certo miglioramento della situazione, nel senso che realmente, cominciando subito questo protocollo di trattamento, di cura, ai primi sintomi, stiamo vedendo delle migliorie. Poi c'è anche il gruppo che non preferisce la medicina naturale, che vuole curarsi con la medicina naturale, e noi diciamo va benissimo, però sarebbe meglio anche la medicina che proponiamo noi, però ci sono gli ostacoli naturali che voi conoscete bene. Questo en tiempo pretérito, cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía, porque ya no quiere vivir más atardeceres. Cuántas veces, porque ya no quiere vivir más amaneceres. Rutina repetitiva que constantemente termina, vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. Perro, para borrar todos los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze, dissonanze. Cippi, non so se mi senti. Sento. Ascolta, volevo chiederti, in questa situazione così dura, così difficile che ci stai descrivendo, esiste qualche supporto da parte di altre entità, altre organizzazioni, oppure c'è davvero una situazione anche un po' di isolamento delle comunità in questo momento? No, non c'è supporto di niente, di nessuno. Di fatto, a parte le difficoltà per i movimenti, eccetera, però l'allerta rocca di fatto non permette l'entrata nei territori zapatisti di nessuna organizzazione esterna, per cui non c'è assolutamente nessun aiuto da nessuna parte. C'è un senso di isolamento che da un certo punto di vista sarebbe positivo se fosse un isolamento prima che fosse entrata la malattia. La malattia è già entrata, e giorno e notte abbiamo notizie, abbiamo chiamate, 3 ammalati qui, 5 ammalati lì, famiglie intere, purtroppo è già entrata, per cui è un isolamento adesso soltanto dalle possibilità di qualche organizzazione di poterci portare, non dico tanto, ma qualche cassa di farmaci antivirali, qualche cassa di cortisone. No, non c'è possibilità di avere nessun aiuto dall'esterno, zero. E tu, da quello che stai osservando in questo momento, le persone, cioè ci sono persone anche che riescono a guarire, quali situazioni sono quelle più critiche? Che cosa ci puoi dire un po' di questo quadro? Come ti dico, da quando abbiamo ottenuto, e parliamo di pochi giorni, una settimana, 10 giorni magari, e qui sempre si perde la cognizione del tempo, ma in questa occasione si perde ancora di più, quindi diciamo da una decina di giorni più o meno, quando abbiamo cominciato a intervenire sui primi sintomi, ci sono stati già, e io non posso parlare di guarigioni perché purtroppo non abbiamo modo di fare i tamponi, di fare le prove di laboratorio, diciamo così, però clinicamente sì, stiamo vedendo persone che alcune stanno migliorando visivamente, clinicamente stanno migliorando, e quindi ci auguriamo di che sia un vero miglioramento. Dico un vero miglioramento perché non fraintendetemi, non voglio essere tanto negativo, ma purtroppo questa malattia fa così. Abbiamo visto troppo spesso che c'è un miglioramento, medici, infermieri, promotori, in questo caso, familiari, eccetera, si tranquillizzano perché vedono la persona che comincia a star meglio, sta meglio, improvvisamente muore. Però, per rispondere alla tua domanda, stiamo vedendo questi miglioramenti. Perlomeno stiamo vedendo in alcuni che non c'è peggioramento. Ti ripeto, la malattia ha queste tre fasi, per cui stiamo vedendo sempre meno persone che passano alle fasi superiori, il che vuol dire che si sta controllando l'infezione. Chissà, potrebbe anche essere vera l'ipotesi fatta da alcuni scienziati, alcuni buoni, alcuni autoinventatosi scienziati, che parlano di un indebolimento del virus. Non lo so, questo non posso dirlo, lasciamo perdere il mio punto di vista personale, che naturalmente non ci crede molto, però potrebbe anche essere questo. Di fatto stiamo vedendo alcuni miglioramenti, però la fase di contagio violenta è ancora tristemente in atto e la gente sta morendo. Stanno morendo anche autorità delle comunità, stanno morendo, ti ripeto, è morto il presidente di un consiglio municipale importante, come quello di San Andrés Larenza, altre personalità, diciamo, autorità delle comunità sono morte in questi giorni. Dico questo non perché l'autorità sia più importante degli altri, ma perché questo crea una grossa emozione nella comunità e facilita questo senso di cui ti parlavo, di fatalismo, di va bene, non c'è niente da fare allora, che ci difficulta, che ci crea delle difficoltà per arrivare a convincere tutti a prendere queste medicine, che non sono la panacea, però sì, abbiamo visto che stanno in parte funzionando. La speranza c'è, hai voglia, e figurati, se perdessimo la speranza non staremmo qui. Fuerte. amici dall'America Latina. Bentornati a Radio Quarantella, a Via Iala, Voci dall'America Latina. Siamo sempre con Cippi Martinelli in diretta dal Chiapas. Cippi, forse vale la pena un attimo soffermarci su quello che ci raccontavi, perché probabilmente non tutti sono a conoscenza di come si compongono i territori all'interno delle comunità indigene del Chiapas, i territori diciamo politicamente definiti. Sappiamo che all'interno di una stessa comunità si possono trovare famiglie che sono appartenenti a un'organizzazione zapatista, famiglie che possono essere affiliate a un partito istituzionale, famiglie che possono essere legate invece a qualche altra organizzazione indigena o contadina, spesso in conflitto tra di loro, a volte riescono a trovare dei momenti anche di alleanza, soprattutto puntuali su dei progetti puntuali di servizio alla comunità. Generalmente invece mantengono un livello di conflitto alto che a volte può sfociare anche in momenti di violenza paramilitare, come è successo più e più volte nella storia del Chiapas. Ti volevo domandare se abbiamo visto che l'EZ ha risposto inizialmente con un'allerta rossa e poi diciamo con un silenzio e una stasi da parte del sistema di salute autonoma, che pure si era sempre rivelato diciamo efficace nelle sue possibilità di risposta. Che cosa sta facendo invece il governo per le popolazioni indigene? Cioè in queste stesse comunità dove si trovano le famiglie anche zapatiste, ma anche famiglie priiste, del PRD e di altre organizzazioni, il governo sta facendo qualcosa? Sta invitando a un certo tipo di protocollo? C'è la solita, diciamo, mancanza di informazione che ha sempre contraddistinto il governo verso gli indigeni, o come si stanno muovendo? La realtà purtroppo è dura. Non c'è assolutamente nessun tipo di intervento da parte del governo, neanche per appoggiare quella fazione, quella parte delle comunità che hanno deciso di diventare appunto partitiste, cioè di lasciare l'organizzazione zapatista per aderire ai partiti politici, specialmente il Morena, quello di López Obrador. Ma comunque non c'è nessun tipo assolutamente di intervento da parte del governo. Le comunità sono, che siano zapatiste, che non lo siano, completamente isolate e lasciate al proprio destino. Ma questo non ci meraviglia troppo, perché sappiamo bene che comunque sia da sempre, da quando è scoppiata la guerra nel 1994, e il governo stava attuando nella maniera più precisa possibile per annientare le comunità indigene con le malattie e con la fame. E come perdere questa occasione? Non fanno neanche finta di fare qualcosa. Sì, se tu senti le conferenze della mattina di López Obrador, della sera del sottosegretario alla salute Gattel, parlano di aiuti al sud, eccetera. E López Obrador è arrivato qui al sud-est del paese ieri, se non mi sbaglio, per mandare avanti il più velocemente possibile il famoso progetto del tren Maya, ma solo per questo, per niente altro. Le comunità sono appunto completamente. Quindi si rivela di nuovo, diciamo, la solita politica del governo, appunto, come dici, di isolamento e di assoluta dimenticanza di quello che sono le necessità delle popolazioni indigene. E un'ultima domanda, avevo Cippi. Abbiamo letto che nei municipi di Aldama, Chalchihuitán, di Chenaló, con l'organizzazione della Sabeca e anche con altre, ci sono più di 3.000 desplazados, sfollati, che a causa di gruppi paramilitari in questo momento non riescono non solo a rientrare nelle loro case, ma non riescono nemmeno ad andare ai caffettales, alle coltivazioni del caffè, agli orti per potersi alimentare, per produrre appunto quell'alimento che è vita. Ci ricordiamo nell'ultima volta che ci siamo sentiti, tu sottolineavi insieme a Orsetta l'importanza della della sovranità alimentare come risposta, diciamo, alle crisi che possono venire dal sistema capitalista. E quindi, diciamo, si vede che pure in momenti di pandemia non smette nemmeno l'attacco da parte dei gruppi paramilitari, quindi quell'attacco efferato che gli indigeni producono nei confronti di altri fratelli e sorelle indigene per interessi apparentemente contrapposti, ma chiaramente interessi guidati e manipolati da gruppi di potere che vengono, diciamo, dall'alto, dai poteri forti. Che sensazioni si ha? Una crisi del genere non è riuscita nemmeno in questo momento a dare un poco più di unità al movimento indigeno? Ma guarda, posso risponderti che forse sì, in che senso? Dobbiamo fare un attimo un passo indietro, però. Nel senso che, per esempio, tu parlavi di questa comunità, hai fatto il nome di Aldama, no? Dove c'è stato da anni, c'è ancora un forte attacco paramilitare contro la comunità di Aldama per ragioni territoriali, vecchie di decenni, se non di più. È successo che Aldama non ha mai risposto al fuoco, fino a un giorno che sì, ha risposto al fuoco e sparavano dentro le case i paramilitari. È successo che le ZLN ha espulso tutta la popolazione di Aldama, li ha cacciati via dall'organizzazione zapatista per aver risposto al fuoco. Quindi questo è stato. Quindi è stato un atto, diciamo, di autodifesa della comunità che non è stato concordato con l'organizzazione. Hanno risposto al fuoco, gli sparavano addosso, hanno risposto al Sì, fuoco. no, comprensibilissimo. Sì. La comandanza zapatista ha espulso tutto il popolo di questo paese, di questo villaggio, compreso le autorità. C'erano comandanti militari, c'erano membri della Junta de Buen Gobierno di Oventic, sono stati espulsi tutti quanti, il che questo ha creato naturalmente un pesantissimo isolamento. Per fare un esempio, parliamo di questo gruppo, di questa comunità, di questo piccolo villaggio, Aldama, ha fatto in modo però che si riformasse quell'autonomia di base che c'è sempre stata nelle comunità indigene. C'è un altro esempio. Prima delle Zeta. Esatto, un altro esempio. Sì. C'è un altro villaggio espulso dalle ZLN perché c'erano state delle dichiarazioni da parte di alcuni responsabili delle comunità che hanno accusato di atteggiamenti dittatoriali da parte del comandante Moisè. A questo punto immediatamente è stata espulsa tutta la comunità di Choroniachilo. Che cosa ha provocato questo? Ha provocato che Choroniachilo si riorganizzasse e attualmente hanno un'organizzazione interna che fa paura, meravigliosa, bellissima. Hanno ricreato i collettivi, hanno ricreato le proprie autorità autonome. E sta funzionando bene, per cui come effetto, diciamo così, c'è stata una ripresa del senso del forte senso di ritornare alla propria autonomia, che per me ha il sapore di una vera autonomia. Certo. Quindi possiamo dire che la spinta all'autonomia ancestrale dei popoli indigeni sta superando anche, diciamo, quella visione e quella traiettoria, quell'immagine che aveva dato le ZLN al movimento di autonomia indigena. È qualcosa di molto, molto interessante quello Beh, che sta succedendo. se posso commentare questo che diceva Cippi, mi sembra anche che un po' la storia delle ZLN, no? Viene dall'incontro tra diciamo, l'organizzazione politico-militare e le realtà di base, anche un po' preesistenti all'arrivo dell'organizzazione politico-militare, che poi nell'incontro poi hanno cominciato a camminare insieme, e poi evidentemente ci possono essere anche dei processi diversi come quelli che adesso ci ha raccontato Cippi. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. Voci dall'Abya Yala. Lotte e resistenze dal Mesoamerica ai tempi del coronavirus.